Abbiamo visto nelle precedenti conversazioni che il cristiano è colui che si impegna a imitare Gesù Cristo. A imitare Gesù Cristo nella situazione concreta in cui si trova e secondo la conoscenza che ha di Gesù Cristo nel momento in cui sta per agire. L'insieme di tutti i cristiani forma la Chiesa. Chiesa è una parola greca che vuol dire assemblea riunita, convocazione riunita, ma i dettagli sulla Chiesa li vedremo in una prossima conversazione. Ora invece facciamo notare che nella Chiesa, cioè nell'insieme di tutti i cristiani, ci sono due modi fondamentalmente diversi, concettualmente diversi, di imitare Gesù Cristo, e all'interno di questi due modi ci sono infinite sfumature ancora, ma almeno questa grossa distinzione è importante sottolineare, e sono il modo del religioso consacrato e il modo del secolare. Esiste dunque una vita cristiana religiosa e una vita cristiana secolare. Qui però la parola religioso non la intendo nel senso di uno che pratica una religione, ma nel senso che all'interno della vita cristiana uno si consacra in un modo particolare a Dio, come avrò modo di spiegare durante questa conversazione. Ora, riflettendo sulla vita di Gesù, si vede che Gesù si è impegnato in questo mondo, ha operato in questo mondo, ma ora è risorto e vive la vita di Dio, cioè la vita eterna, fuori da questo mondo. E Gesù ha insegnato che questo capiterà a tutti gli uomini che vivranno come Lui. Tanto per portare una documentazione, cito il Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, versetto 35, Gesù dice: «Questa è la volontà di colui che mi mandò, che tutto ciò che mi ha dato non perda, ma lo risusciterò nell'ultimo giorno». Dunque si parla di questa risurrezione, questo è un dato poi ripreso da San Paolo, ripreso da tutta la tradizione cristiana. Allora, il cristiano che è in questo mondo non è di questo mondo, non appartiene a questo mondo. Questo l'ha insegnato Gesù quando dice al capitolo 14 del Vangelo di Giovanni, prima della passione: «Vado a prepararvi un luogo, di nuovo vengo e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io anche voi siate». Dunque, in previsione, in preparazione della vita eterna, ci sono due modi di imitare Gesù. Uno, impegnandosi nella realtà del mondo attuale, sempre in vista dell'eternità. Colui che si impegna nel mondo attuale, diciamo nel lavoro, nella politica, nel sindacato, nella famiglia, in tutte le realtà di questo mondo, in vista però di Gesù Cristo, in vista della vita eterna, lo chiamiamo secolare, che vive in questo seculum. Seculum era il modo che avevano i latini per parlare di questo mondo. Invece ci può essere una persona che vuole già realizzare, per quanto è possibile ora, in anticipazione, la vita eterna, quella vita che tutti vivranno dopo la morte. Questa persona la vuole anticipare ancora già adesso, quando vive nel tempo. Ecco, questa persona la chiamiamo religioso, religioso consacrato, che si impegna a vivere in anticipazione la vita eterna. Prima di continuare e soprattutto di approfondire la vita religiosa consacrata, vorrei far notare che la scelta se imitare Gesù da religioso o da secolare è una scelta della persona, una scelta insindacabile, nessuno può intervenire, e costituisce la risposta fondamentale che il cristiano dà alla chiamata che Dio ha scritto nel suo essere. La tendenza nell'essere a impegnarsi nelle realtà di questo mondo, oppure la tendenza sempre nell'essere a superare questo mondo e vivere in anticipazione la vita eterna. Faccio poi notare che la vita religiosa è essenzialmente una vita di fede, perché se non si crede alla vita eterna non ha senso parlare di vita religiosa. Per questo che i pagani non comprenderanno mai la scelta di uno che si separa dal mondo, che va nel deserto, che va a fare una vita eremitica, oppure la vita di colui che sceglie la clausura. Immaginate le suore contemplative, le suore di clausura. I pagani non lo capiranno mai, tenteranno di dire che sono degli improduttivi o degli egoisti. E io farei presente che l'egoismo si può annidare in qualunque tipo di vita, cioè in qualunque stile di vita, perché è il pericolo di tutti. Anche lo sposato può essere un egoista, anche colui che lavora nel mondo può essere un egoista, anche colui che si impegna per la carità e la giustizia può farlo per esibirsi, per far vedere che lui è più in gamba di tutti. E dunque l'egoismo c'è in qualunque vita, e non solo nella vita religiosa. Ora, dato che la vita religiosa è meno conosciuta nei suoi fondamenti della vita secolare, vorrei ora approfondire un briciolino di più questa situazione. E vorrei dire prima di tutto in che cosa consiste la vita religiosa. L'ho già detto, ma ora approfondisco. Essa consiste nel vivere fin da ora, nel tempo, in anticipazione e per quanto è possibile in questo mondo, la vita eterna che tutti dovranno vivere dopo la morte. Ma come sarà questa vita eterna? Il cristiano va a cercare la risposta nel Nuovo Testamento e viene a scoprire, per esempio dalla prima lettera ai Corinzi al capitolo 7, da Marco al capitolo 13, da altri capitoli ancora, viene a scoprire che nella vita eterna passerà la figura di questo mondo, passerà lo schema di questo mondo. In particolare, non ci sarà più matrimonio. Per esempio, dice Gesù nel Vangelo di Matteo al capitolo 22, nella discussione di chi sarà moglie una certa donna che ha avuto 7 mariti nell'eternità, chi di questi 7 l'avrà? E Gesù risponde: voi vi sbagliate, risponde così ai Sadducei, perché nella vita eterna né ci si sposa né si prende marito, dunque il matrimonio non ci sarà più. Potrà piacere o dispiacere agli eventuali sposati che mi stanno ascoltando, però il matrimonio è legato a questa vita, nella vita eterna non c'è più, così dice Gesù. Ancora, nella vita eterna non si useranno più le cose di questo mondo, non ci saranno più le cose di questo mondo, così è detto nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 7, i versetti dal 29 al 31, così è detto nella prima lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 6, i versetti 7 e 8. E dunque il cristiano che ha fatto la scelta di essere religioso, guidato dalla parola di Gesù, cerca di consacrarsi il più direttamente possibile solo a Dio, superando le realtà create e usando di questo mondo il minimo indispensabile per vivere. In particolare, il religioso sceglie di rinunciare al matrimonio per vivere in perfetta castità. Sceglie di distaccarsi da tutte le cose che non sono strettamente necessarie per vivere in completa povertà e sceglie di rinunciare anche ad una normale convivenza con gli altri fratelli per vivere in solitudine con Dio, perché alcune volte i fratelli possono essere di ostacolo. Vorrei far notare a questo proposito che la vita religiosa è un atto di fede nella risurrezione, nella vita eterna. e che non tutti i cristiani sono chiamati da Gesù a questa scelta radicale, perché se tutti facessero i religiosi il mondo cristiano andrebbe alla fine presto. E a prova di questo vorrei citare un testo del Vangelo di Matteo in cui i discepoli dicono a Gesù: ma se le cose stanno così in relazione al matrimonio, Gesù aveva preso una posizione rigida nei confronti del matrimonio, non conviene sposarsi. Ed egli disse loro: non tutti capiscono questa parola, ma soltanto quelli ai quali è stato concesso. Ci sono infatti degli eunuchi, dei castrati, delle persone che rinunciano al matrimonio, nati così dal seno della madre, e vi sono degli eunuchi fatti tali dagli uomini, e ci sono di quelli che si sono fatti eunuchi da se stessi in vista del regno dei cieli. Chi può comprendere, comprenda. Inoltre, voglio far notare ancora che l'impegno di vivere da religioso il cristiano lo prende davanti a Dio, in piena libertà di coscienza. Però spesso l'impegno è preso anche davanti alla Chiesa, e allora il religioso emette voti pubblici, seguendo una regola approvata da qualche vescovo o da qualche papa. Ma uno può fare anche il religioso a casa propria, non deve mica rendere conto della sua scelta a nessuno. Chiaro che se invece vuole entrare in una comunità religiosa, beh, deve essere d'accordo anche la comunità di accettarlo. Ora, il modo di vivere poi concretamente la vita religiosa, soprattutto in relazione al distacco dai beni di questo mondo, cioè la povertà, può variare da religioso a religioso, da comunità religiosa, congregazione religiosa, ordine religioso a ordine religioso. Insomma, ci sono forme leggermente diverse nella storia. Ecco, in teoria, nella storia, si sono manifestate le seguenti forme di vita religiosa. L'ideale primo, iniziale, della vita religiosa era la vita eremitica, cioè una vita di totale solitudine, di comunione con Dio, spesse volte vissuta nel deserto, lontano da tutti, separato da tutti, in continua preghiera, e lavorando proprio il minimo indispensabile per una vita estremamente povera, estremamente essenziale. Però la vita eremitica, nella storia si è visto, ha un grave rischio. Se l'eremita non ha raggiunto una vera maturità spirituale, l'entusiasmo di questa donazione totale a Dio nella solitudine lentamente può diminuire, e possono sorgere tentazioni molto gravi a cui l'eremita facilmente soccomberà. Per questo, o in preparazione alla vita eremitica o anche come vita definitiva, è sorta la vita comunitaria, cioè una vita che si chiama con parola tecnica cenobitica, vita comune. Per garantirsi contro le debolezze della volontà, contro gli ghiribizzi della volontà, contro i ritorni magari a un passato modo di vita, il religioso sceglie di mettersi in una comunità in cui sia possibile praticare pienamente il Vangelo, ma con il controllo e l'aiuto dei fratelli, e in particolare con il controllo di una regola già ben consolidata e ben sperimentata e il controllo di un superiore. In questa prospettiva, ai due voti tradizionali di castità e povertà si aggiunge un terzo voto, il voto di obbedienza. Obbedienza alla regola, obbedienza al superiore che incarna, esprime concretamente la regola. I primi cristiani hanno popolato il deserto. Poi, essendosi accorti di questo inconveniente, del rischio della vita eremitica, hanno fatto sorgere dei villaggi cristiani, cioè dei monasteri dove la regola è il Vangelo, ma sotto il controllo di un'autorità chiamata abate, chiamata superiore, chiamata in tante maniere, ma l'abate, diciamo, è colui che impersonifica la regola. Questa vita religiosa, come è sorta, era una vita contemplativa. Insieme, in gruppo, ci dedichiamo alla meditazione, alla riflessione, alla preghiera, e lavoriamo anche per mantenerci, per mantenere i monaci anziani che non sono più in grado di lavorare, e anche per mantenere eventuali ospiti che vengono in mezzo a noi per vivere qualche giorno la nostra vita, o per disintossicarsi da una vita secolare troppo impegnata e troppo dispersa. Ma nella storia ci fu anche un'altra esigenza. I monaci contemplativi non sono degli orsi, gli eremiti non sono delle bestie solitarie che non possono vedere nessuno. Hanno un problema di fedeltà a Gesù Cristo, ma hanno anche un problema di fedeltà ai fratelli, per cui quando la comunità cristiana, o anche la più larga comunità umana, ha avuto certi bisogni urgenti, certe necessità particolari, i monaci sono stati i primi a lasciare la loro solitudine, a lasciare il loro monastero per rendere un servizio alla società. In particolare, in momenti di epidemia, i monaci furono i primi ad aiutare i fratelli che avevano bisogno, anche perché il monaco, non avendo l'ostacolo di una famiglia, può anche correre il rischio di prendersi una malattia, un'infezione. Beh, insomma, lui anticipa l'andata in cielo, meglio per lui. E non ha nessuno che lo pianga, perché nella vita religiosa l'ideale sarebbe quello di morire per essere sempre con Dio, come già diceva San Paolo per tutti i cristiani nella lettera ai Filippesi. Paolo dice: per me il vivere è Cristo, il morire è un guadagno. E dunque, se un religioso in un momento di epidemia si prende anche lui la malattia e muore, alleluia. Poi ci furono altre esigenze nella comunità. Per esempio, ad un certo punto i religiosi si sono accorti che era necessario predicare. E allora, perché la gente non viveva più secondo il Vangelo, e molte volte i preti secolari, quelli che non si impegnano nella vita religiosa, perché non tutti i preti sono religiosi, attenzione, ma ne parleremo ancora, non si occupavano più di catechismo. E allora ecco che i religiosi hanno pensato di occuparsi loro di questa attività di predicazione, e così sono nati i domenicani, così sono nati i francescani, che andavano a predicare porta a porta. Poi ci si è accorti che era necessario occuparsi delle missioni, sia qui nei paesi che chiamiamo già cristianizzati, e sia soprattutto nei paesi non ancora cristianizzati, ed ecco i religiosi che sono partiti missionari. Poi ci si è accorto che era importante assistere gli ammalati, ed ecco le suore per gli ospedali, per i pensionati, per i ricoveri. Poi ci si è accorti che era importante l'istruzione dei poveri, soprattutto dei poveri, perché i ricchi hanno sempre modo di istruirsi, hanno sempre modo di curarsi, insomma i ricchi sono avvantaggiati in questo senso. E allora i religiosi hanno aperto scuole, hanno aperto collegi, sempre per i poveri. Poi magari alcune volte questi istituti religiosi hanno degenerato, erano partiti per i poveri, sono finiti per i ricchi e malamente, ma in questo caso poi pian piano decadono, non hanno più vocazioni e finiscono. Nella storia quanti religiosi sono, quanti istituti religiosi sono finiti. E infine, come quarta forma di vita religiosa, oggi ci si è accorti che c'è bisogno anche di una testimonianza più nascosta, più segreta. E allora sono sorti degli istituti che si chiamano secolari, solo perché sono formati da religiosi che vivono nel mondo, a casa loro, non si manifestano con una uniforme, con una divisa, l'unica loro divisa è la pratica della carità. E si chiamano questi appunto istituti secolari. Allora, riassumendo le forme che storicamente ha assunto la vita religiosa, abbiamo questo quadro. Prima di tutto, alle origini, gli eremiti. eremiti approvati con delle norme, diciamo, ufficialmente approvate, o anche eremiti solitari che vivono così per conto loro. Poi abbiamo i cenobiti, cioè quelli che vivono in comunità. E i cenobiti possono essere prima di tutto contemplativi, si dedicano alla preghiera e a quel poco di lavoro materiale per rimanere coi piedi per terra e per mantenersi, e poi invece cenobiti che vivono in comunità ma si dedicano ad opere apostoliche, cioè invece di guadagnare da vivere attraverso il lavoro manuale, materiale, si guadagnano da vivere attraverso opere di carità, aiutati dai fratelli che usufruiscono di queste opere di carità, aiutati economicamente se questi fratelli possono, se non possono pazienza. E infine il quarto modo di vita religiosa sono gli istituti secolari sorti soltanto recentemente ai tempi di Pio XII, cioè verso gli anni 1945-50, e adesso si stanno diffondendo molto. Ecco il quadro della vita religiosa. Per completare il nostro discorso, ora parliamo anche dei secolari, perché la vita secolare è la vita che la maggior parte dei cristiani conduce, ma spesse volte anche lì non si distingue a sufficienza dalla vita dei pagani, e allora bisogna chiarire anche questo. Che cos'è la vita secolare? Abbiamo già detto che essa consiste nel vivere la vita cristiana impegnandosi in questo mondo, impegnandosi per trasformarlo in vista della manifestazione finale di Gesù Cristo, per, diciamo, preparare in certo senso la manifestazione finale. Secolare dunque è colui che imita Gesù Cristo impegnandosi nella realtà di questo mondo, ma sempre secondo la volontà di Dio che si è rivelata attraverso Gesù Cristo. Campi specifici di attività dei secolari sono prima di tutto la famiglia, il lavoro retribuito evidentemente per mantenere la famiglia, la politica, il sindacato, insomma tutte le attività strettamente legate al mondo attuale e che terminano con la morte. Ora, non c'è da pensare che la vita secolare sia meno vita cristiana della vita religiosa. Sono due modi complementari di vivere la unica imitazione di Gesù Cristo, per cui i religiosi non sono di cristiani di serie A e i secolari cristiani di serie B. Si è cristiani alla stessa maniera, ma in una forma o in un'altra. Il Concilio Vaticano II ci ha richiamati alla universale vocazione alla santità. Una suora è chiamata alla santità, ma anche una mamma di famiglia è chiamata alla santità. La suora sarà santa se sarà una buona suora e farà tutti i doveri di una buona suora. La mamma di famiglia sarà santa se sarà una buona mamma di famiglia e farà tutto quello che deve fare una buona mamma di famiglia. Dunque, sono tutte e due vita cristiana in due forme diverse. Ora, che funzione hanno i secolari? Il Concilio Vaticano II ha sviluppato assai questo punto perché ci si è accorti che era un punto un po' dimenticato, e hanno parlato di funzione profetica dei secolari, funzione sacerdotale e servizio regale. Tre parole difficili che vorrei brevemente spiegare. Primo, funzione profetica. Profeta, nel Nuovo Testamento, ma anche nell'Antico Testamento, non è chi predice il futuro, ma chi rivela la volontà di Dio nella storia, chi fa conoscere agli altri ciò che Dio vuole. Bene, i secolari hanno questa funzione profetica, manifestare ai non cristiani il senso che Dio ha dato a questo mondo e quindi come usare bene, cioè secondo la volontà di Dio, di questo mondo. E i secolari dicono questo con la vita impegnata nel cristianesimo e con la parola, cioè con la evangelizzazione dei non credenti. La seconda funzione è la funzione che chiamano sacerdotale. Ora, sacerdote nelle religioni è l'intermediario fra Dio e gli uomini. Il cristiano secolare sacerdote, in quanto è intermediario fra Dio e gli altri uomini, fra Gesù Cristo e gli altri uomini, per testimoniare agli altri uomini che vale la spesa a vivere come Gesù Cristo ha insegnato. E poi si parla di servizio regale da re, perché Gesù è re, perché i cristiani sono re. Ma attenzione, in un periodo come il nostro, dove la monarchia viene presa in giro, dire che il cristiano è re, che Gesù Cristo è re, fa un po' ridere. Ma se pensiamo un momento, che Gesù dice: voi sapete che i capi di questo mondo, i re di questo mondo, si fanno servire, non deve essere invece così per voi. Chi di voi vuole essere il più grande, si faccia servo di tutti. Allora re vuol dire uno che si mette a servizio degli altri. Deve mettersi a servizio di tutti i fratelli, il secolare, per offrire per mezzo del proprio lavoro agli altri figli di Dio le cose di questo mondo ben servite, per aiutare i fratelli nella carità, per impegnarsi fino in fondo perché il regno di Dio, cioè l'autorità di Dio, si diffonda presso tutti gli uomini. Ecco le funzioni dei secolari. E a questo punto forse merita ancora una riflessione sui rapporti fra vita secolare e vita religiosa. Ho già detto che tutte e due sono vita cristiana, cioè vita a imitazione del Cristo. Non si pensi perciò che la vita religiosa sia una vita più cristiana di quella secolare, anche se purtroppo qualche suora l'ha pensato nei secoli e qualche secolare ha pensato di essere un cristiano di serie B a cui bastano i 10 comandamenti. Ho spiegato che la morale cristiana è sempre imitare Gesù Cristo. Quindi ogni cristiano è chiamato a imitare Gesù Cristo, obbedendo a Dio e superando il proprio egoismo mediante una scelta personale fatta in base alle inclinazioni che egli ritiene che Dio abbia posto in lui, quella che si chiama la vocazione, la chiamata di Dio. Ma attenzione che Dio parla con l'essere, scrive la sua volontà nell'essere. Secondo il cristianesimo, però, la vita secolare non è ancora la vita definitiva, prepara alla vita definitiva. La vita religiosa, invece, è già la vita definitiva vissuta in anticipo. Perciò, in sé, la vita religiosa è migliore di quella secolare, come il definitivo è migliore del provvisorio. Ma questo non vuol dire, come ho già detto, che il religioso sia più santo del secolare. La santità consiste nel fare sempre la volontà di Dio, rivelata attraverso Gesù Cristo, ma farla nella situazione concreta in cui uno si trova. Può darsi, per esempio, che qualcuno di voi che mi ascolta si trovi già imbarcato, cioè si trovi già come secolare o come religioso. E San Paolo dice: ognuno rimanga lì dove si trova. Non è il caso che adesso uno che mi ascolta ha scoperto: ah, ma io che sono sposato ho una vocazione religiosa e perciò mollo il mio coniuge e me ne vado. No, no, rimanga in quella situazione. Ti sei svegliato a questo problema già imbarcato e va bene, continua a rimanere su quella barca, non scendere. Vivi la tua vita cristiana lì, perché lì Dio ha voluto, attraverso tutte le precedenti circostanze, che tu vivessi lì. se avesse voluto diverso, ti avrebbe fatto arrivare questo annuncio, questo discorso, questa distinzione fra secolari e religiosi in tempo utile, te l'ha fatta arrivare dopo, va bene. E allora questa sia una tua conoscenza culturale in più che acquisisci, magari insegnerai ai tuoi figli la distinzione fra vita religiosa e vita secolare, ma non cambiare la tua vita. Vivi cristianamente, coscientemente, lì dove ti trovi. E allora, continuando, devo dire che tutti i cristiani hanno l'impegno della castità, della povertà e dell'obbedienza, perché questi tre valori sono valori fondamentalmente cristiani, ma vanno vissuti in modo diverso dai religiosi e dai secolari. E vediamo come. La castità. La castità per i religiosi è la rinuncia totale all'uso della facoltà sessuale per il regno dei cieli. Si parla di castità perfetta. Per i secolari, invece, implica è la volontà di integrare in Cristo la propria sessualità. Si parla allora di castità prematrimoniale e di castità matrimoniale, perché anche nel matrimonio c'è l'impegno alla castità. Castità vuol dire non, il cristiano non può usare il matrimonio come gli fa comodo, secondo la sua sbrigliata fantasia, ma secondo la volontà di Gesù Cristo. Tra parentesi, non è neanche detto che tutti i secolari si sposino. È essenziale alla vita religiosa il superamento del matrimonio, ma non è obbligatorio nella vita secolare lo sposarsi, anche perché, è facile da capire, per sposarsi bisogna essere d'accordo in due. Io ho presente degli amici sindacalisti sfegatati di sinistra che, per poter essere più liberi, per fare la loro attività sindacale e anche politica, hanno deciso di non sposarsi. Una volta dicevo ad un mio amico di Ivrea, ma vedi, la differenza fra me e te non c'è. Tu, per fare la tua attività politica e sindacale, hai deciso di non sposarti, io per fare la mia attività di evangelizzazione ho deciso la stessa cosa. Poi però, alcuni anni dopo, questo amico mi ha mandato la sua partecipazione di nozze, e allora gli ho scritto, non avendo potuto partecipare perché ero lontano, gli ho scritto: vedo che la tua fede politica è fortemente in crisi. La povertà. La povertà vale per tutti i cristiani, per tutti coloro che mi ascoltano. Infatti Gesù dice nel Vangelo di Luca, al capitolo 14, versetto 33, giova ricordarlo: chi non rinuncia a tutto ciò che possiede non può essere mio discepolo. Bella meditazione. Però per i religiosi questo implica un distacco totale, un distacco effettivo dai beni di questo mondo, e anche un distacco affettivo. I beni di questo mondo non sono dei valori importanti. Sono dei valori, certo, ma per i secolari, i religiosi non cercano, non dovrebbero cercare, i beni di questo mondo. Per i secolari, invece, questa parola di Gesù implica non il distacco effettivo dalla ricchezza, ma il distacco affettivo, cioè la ricchezza deve essere usata a servizio dei fratelli secondo la volontà di Dio. Mi spiego con un esempio. Un imprenditore cristiano deve avere un conto in banca e deve averlo anche piuttosto sostenuto per sopperire eventualmente alle crisi di mercato. Se lui si distacca completamente dai soldi, quando poi c'è un calo perché c'è una crisi di mercato per saturazione del prodotto, per altre cause economiche che io non so analizzare, e so però che certe volte succede che ci sono delle crisi di mercato, lui che non ha più i soldi cosa deve fare? Deve licenziare? Molto meglio invece se tiene lì un capitale che può intervenire per superare questa crisi e continuare a dare lavoro ai suoi dipendenti. Diversamente, invece, se usa questi soldi solo per i suoi piaceri più sfrenati, solo per un lusso sfrenato, per dimostrare che lui se lo può permettere, e allora siamo fuori. L'imprenditore cristiano userà anche dei milioni, dei miliardi, avrà anche una firma che vale miliardi, ma la userà questa firma a servizio dei fratelli. Se invece la usa per sé, è un egoista ed è fuori da Gesù Cristo. L'obbedienza. Per i religiosi implica la rinuncia totale alla propria volontà, per ricercare sempre la volontà di Dio, ma, soprattutto se uno vive in comunità, in piena sottomissione ad un superiore che rappresenta Dio. Il voto d'obbedienza del religioso non è un voto di schiavitù, è un voto di libertà, perché nel momento in cui il religioso ha pronunciato il voto d'obbedienza al superiore, lo ha fatto in perfetta libertà. Lui dice: io so che la mia vita è oscillante, che la mia volontà è debole, e allora accetto il controllo del superiore sulla mia vita, di modo che io possa garantirmi contro i ghiribizzi della mia volontà. Per i secolari, invece, implica anche per loro la rinuncia alla propria volontà per ricercare la volontà di Dio, ma in relazione alla vita attuale, come preparazione alla vita eterna. E dunque l'obbedienza può essere l'obbedienza alle leggi, può essere l'obbedienza ad un coniuge, può essere l'obbedienza a dei figli, non nel senso di fare tutti i capricci che gli altri vogliono, ma nel senso di aiutare a crescere, far crescere queste persone, quelli che ci circondano, nella volontà di Dio. E in questo noi obbediamo a loro. Il marito obbedisce alla moglie non perché attua tutti i capricci della moglie, ma semplicemente perché aiuta la moglie a crescere, perché questo era l'impegno che si è preso col matrimonio, e questo è il voto d'obbedienza alla moglie. Ora, i religiosi e i secolari si aiutano reciprocamente a crescere nella fede, e ci vogliono dunque nella Chiesa e gli uni e gli altri. La funzione del religioso è quella di ricordare ai secolari che i veri valori sono quelli eterni. Ricorda ai secolari di non attaccare troppo il cuore ai beni di questo mondo, perché sono beni transitori. E a volte ricordano anche o indicano ai secolari strade nuove per praticare la carità. Viceversa, i secolari stanno all'interno della Chiesa a ricordare ai religiosi che queste realtà del mondo sono un bene, perché la tentazione classica del religioso è quella dell'angelismo, cioè di vivere talmente sulla stratosfera, dimenticandosi che ha un corpo, dimenticandosi che è ancora in questo mondo. I secolari invitano i religiosi a tenere i piedi per terra e a dire: guardate che i valori di questo mondo sono sì valori transitori, ma sono valori, dunque rispettateli. E poi i secolari hanno anche la funzione di ricordare o indicare ai non cristiani come usare di questo mondo. Dunque, il religioso dà una testimonianza solo ai secolari cristiani. Il secolare invece dà una testimonianza ai religiosi che i veri valori sono i valori, che i valori di questo mondo, scusate, sono anche valori validi. E poi dà una testimonianza ai non cristiani di come usare bene le cose di questo mondo. La tentazione dei secolari invece è quella di impegnarsi talmente in questo mondo da dimenticare i valori eterni. E allora la tentazione si chiama terrenismo. Mi impegno in questo mondo come se qui dovessi rimanere sempre. Cioè un problema di fedeltà agli uomini, se vogliamo, ma tradendo Dio e tradendo il fine eterno che ha la vita umana. E questa, per i secolari, è proprio la tentazione classica contro cui devono lottare. Conclusione: dopo questa conversazione, forse è il caso di imparare a rispettarci. I religiosi imparino a pensare che anche i secolari sono chiamati alla santità. e i secolari imparino a pensare che la vita religiosa è la vita definitiva che anche loro dovranno vivere dopo la morte, e dunque non attacchino troppo il cuore alle realtà di questo mondo, perché poi dovranno lasciarle. Si noti che l'esempio classico, tipico della vita religiosa è proprio il cadavere. Sant'Ignazio, quando ha fondato i suoi religiosi, chiamati poi gesuiti, ha detto loro che devono obbedire perinde ac cadaver, frase latina che dice vuol dire come un cadavere. Difatti il cadavere fa voto di castità, il cadavere fa voto di povertà, perché prima di morire lascio se è tempo di far testamento, e se non ha tempo per fare il testamento lascia lo stesso, e fa voto di obbedienza perché il cadavere fa tutto quello che vogliono gli altri e non quello che vuole lui. Con questa conclusione, che a prima vista può sembrare un po' macabra ma che nel suo significato profondo è stupenda, io vi auguro che possiate riflettere su queste cose e possiate approfondire la vostra vita o da secolari o da religiosi. Auguro poi ai giovani di riflettere se il Signore li vuole o come secolari o come religiosi, tenendo conto che devono rispondere esclusivamente a Lui. Grazie della vostra pazienza.